Un'intervista che non promettiamo breve per un viaggio che non promettiamo breve, 25 anni di Lotte Not Have in Val di Susa, il libro di Vuming 1 che esce oggi nelle librerie italiane, e noi abbiamo l'onore, insomma, di avere Vuming 1 qui con noi. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Un libro che, appunto, come si capisce anche dal sottotitolo, narra le storie, la storia, però appunto forse il plurale non è un lapsus, è anche giusto, di questo movimento. Un libro che è al tempo stesso, come potremmo definire, un'inchiesta romanzata? È dura, è un romanzo inchiesta, è un'inchiesta romanzo, è un poema reportage, è un oggetto narrativo non identificato e difficilmente identificabile, che è un po' la cifra che contraddistingue il nostro lavoro negli anni 10, il lavoro come collettivo Vuming e nello specifico il mio, ecco, mi sto muovendo in quella terra di nessuno lì. Certo, poi al di là delle etichette che appunto contano poi anche i contenuti, e in questa lunga intervista cercheremo di sviscerare un po' questo tuo lavoro. Prima di tutto volevo chiederti così un commento a una notizia che è uscita mercoledì scorso, che riguarda appunto il TAV, questa volta non la Torino-Lione ma la tratta Milano-Genova, poi non solo, anche appalti per autostrade, 21 arrestati in un'inchiesta per corruzione. È stato un lampo a ciel sereno, secondo te? No, tra l'altro non è nemmeno una novità, perché negli ultimi anni svariate inchieste hanno scoperchiato la fossa di vermi degli appalti e dei subappalti delle grandi opere. Voglio dire, è stata anche decapitata la struttura del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che si occupa di grandi opere pubbliche, il famoso scandalo Incalza per cui Maurizio Lupi non è più ministro ma è stato sostituito da Graziano Del Rio. Queste cose saltano fuori periodicamente per Expo, per il Mose. Ricordiamo che, insomma, il consorzio Venezia Nuova è stato travolto da un'inchiesta ed era il general contractor di quell'opera, e così. Sì, in realtà anche nella Torino-Lione sono emerse delle cose come minimo ambigue, per quanto riguarda anche l'impiego di ditte collegate ad elementi delle 'ndrine della criminalità organizzata all'interno del cantiere di Chiomonte. Insomma, tutte queste cose ogni volta conquistano i titoli. Però non si sedimenta una consapevolezza, cioè si sedimenta chiaramente in una minoranza di lettori che sono già sensibilizzati sul tema, e però l'informazione non riesce o non vuole, dipende di quali testate stiamo parlando, far capire che il rapporto tra grandi opere e corruzione non è occasionale ma è sistemico, è strutturale, sta nell'architettura degli appalti, sta nelle leggi che sono stati fatti per poter semplificare gli iter, come dicono loro, delle grandi opere, e questa cosa è del tutto scontata, è normale. Ogni volta però appunto sembra un fulmine a ciel sereno, c'era la mafia, c'era l'andrangata, guardi, incredibile, c'era la corruzione in questa grande opera. Però poi, se si uniscono tutti i puntini numerati, è difficile trovare una grande opera pubblica che non conosca questo tipo di dinamiche, ed è difficile farlo perché queste dinamiche sono già implicite, sono già strutturalmente presenti all'interno del sistema. Poi appunto cercheremo di entrare anche nel dettaglio del libro, perché questa cosa che ci stai appena dicendo si evince un po' da tutto il libro, anzi si evince, viene proprio sviscerata. Insomma, faccio ancora qualche premessa per chiederti come è nato questo libro o quanto ci hai messo a scriverlo. Ci ho messo a scriverlo 3 anni e mezzo abbondanti, ed è nato quando, lo racconto nei credits alla fine, nella primavera del 2012 sono stato invitato alla prima edizione di un festival letterario che si svolge in Val di Susa, organizzato tutto da Notav, a Bussoleno, una montagna di libri contro il TAV si chiama, e fui invitato assieme ad altri scrittori, Girolamo De Michele, I Kaizen, Serge Quadrupani, a fare un dibattito su letteratura, narrazioni e movimenti, nello specifico il movimento Notav, cioè cosa il movimento Notav poteva apprendere dal lavoro di noi scrittori e cosa noi scrittori potevamo apprendere dal movimento Notav. Io feci un intervento dicendo che loro da noi poco, noi da loro tantissimo, perché è un movimento che in realtà ha saputo ogni volta mettere in crisi le rappresentazioni falsate che venivano appioppate, venivano ammannite al pubblico, ogni volta è riuscito a scartare, a superare anche le fasi di crisi più acuta, con insomma delle dinamiche di autoracconto molto efficaci, che magari fuori dalla valle impattano di meno, ma fanno sì che lì il morale sia sempre alto e che non si facciano né irretire da, insomma, da contentini tipo le compensazioni, né schiacciare, demoralizzare dalla repressione eccetera. Quindi io dissi, delle due sarebbe interessante capire non solo come noi scrittori possiamo aggiungere delle armi al nostro arsenale guardando all'esperienza del movimento Notav, ma anche noi scrittori dovremmo impegnarci a usare le nostre tecniche per raccontare a modo nostro il movimento Notav e nel farlo capire perché esiste, perché proprio in questa valle, perché di tanti movimenti contro le grandi opere inutili e imposte questo qui è quello più radicale e più radicato, è ormai una storia di oltre 20 anni alle spalle, allora oltre 20 anni, adesso stiamo scavallando il quarto di secolo. E proprio quella sera lì dormì all'ostello del Conte Rosso di Avigliana, che è una delle basi, diciamo così, Notave, che purtroppo proprio oggi, lunedì 31 agosto, chiude perché non è stato rinnovato il bando, speriamo possa riaprire presto i battenti. Ecco, quella sera all'ostello del Conte Rosso ho pensato, lo scrivo io un libro così, e ho cominciato a investigare e tornare in valle tante volte, fare tanti sopralluoghi, tantissime interviste, ho fatto una quarantina di interviste fiume, e leggere tutto quello, insomma tutto è quasi impossibile, però leggere buona parte di quello che è stato messo nero su bianco sul movimento Notav, e andare a cercare nella storia della valle la genealogia di questa lotta, da dove viene, perché viene da lontano in realtà. Ecco, su questo ci arriviamo. Il titolo, un viaggio che non promettiamo breve, è mutuato da una frase pubblicata su un mensile del Movimento Non Violento in Val di Susa, che appunto anticipava quello che effettivamente un viaggio che non sarebbe stato breve, ma ha una duplice lettura, almeno per quello che posso aver capito io. Una lunga battaglia, quindi appunto non sarà breve ma è lunga, ma anche il concetto di tempi lunghi, perché una cosa cruciale secondo me che tu metti in risalto nel libro è che il movimento Notav non è un movimento contro la mobilità, diciamo, contro la possibilità di viaggiare, ma c'è modo e modo di farlo. Sì, sì, la Val di Susa in realtà è una valle che è stata plasmata, è stata formata dalle grandi reti di trasporti nelle varie epoche, dalla via Francigena che ci passa da 1000 anni, alle varie mulattiere e sentieri e le carrozzabili, e poi la ferrovia da poco oltre la metà dell'Ottocento, lì arriva la ferrovia da Torino a Susa e poi diventa internazionale quella linea poco dopo, arrivando fino a Modane, oltre il confine, che è quella che è l'attuale linea storica. Quando si parla della linea storica è quella lì che esiste da 150 anni ed è stata riammodernata pochi anni fa. Poi c'è le due statali del Moncenisio e del Monginevro e la controversa autostrada, la A32, tra l'altro il tratto autostradale più caro d'Italia, prima che venisse fatta la Brebemi, adesso penso che se la giochino, fatta negli anni 80. Insomma, lì tutto il dibattito è sempre stato sul fatto che la valle è un luogo di transito, però il transito di una volta portava qualcosa alla valle e c'era una dimensione di scambio, perché tutte le vie di comunicazione, a parte l'autostrada, tutte le vie di comunicazione che ho nominato fino adesso erano punteggiate di luoghi di sosta, appunto luoghi di scambio, luoghi di ristoro, luoghi di arricchimento reciproco. E una volta appunto il viaggio era il viaggio, non era semplicemente uno spostamento traiettoriale da un punto all'altro, e quindi loro dicono la nostra vocazione è al viaggio e al transito, ma non siamo un corridoio, e quello è il concetto che loro respingono, perché in un corridoio passi e basta, mentre durante un viaggio fai anche delle esperienze. È una valle tra l'altro di ferrovieri, perché appunto dall'Ottocento in poi ha avuto migliaia di ferrovieri, quindi con tutte le famiglie e tutto l'indotto anche dell'industria ferroviaria, officine di riparazioni, magazzini e tutto quanto, quindi non è certo una lotta contro i treni, questa qua, né appunto contro la mobilità. È una lotta anzi che si basa su una expertise collettiva, sul fatto che in realtà se ci sono degli italiani che si intendono di trasporti e di reti di trasporti sono i valsusini, proprio per vocazione storica, per tradizione, per genealogia di questa lotta. E la frase che dà il titolo all'album, come, all'album, vedi, l'ho tratto come se fosse un album di canzoni, perché di fatto anche ho lavorato sul rap, sulla scrittura ritmica, poi nomino un sacco di canzoni, c'è un andamento anche che ho voluto anche musicale. Ecco, il titolo del libro, Un viaggio che non promettiamo breve, appunto è il primissimo speciale sul TAV uscito sul mensile Dialogo in Valle, che è un mensile appunto di movimento non violento, cattolici del dissenso, sinistra sociale diffusa in Val di Susa, che è uscito per 30 anni e passa, e in quel primo speciale si diceva: vogliono fare questa cosa qui, c'è questo progetto di questa nuova linea ad alta velocità, guardiamo a dove sono state realizzate queste linee e cosa comporta anche questo per quanto riguarda la ristrutturazione delle ferrovie che è in corso e tutto quanto, e se qualcuno appunto vuole indagare criticamente quello che sta per succedere anche nell'ottica magari di dire la nostra e di opporsi, allora ci segua in un viaggio che non promettiamo breve. C'era anche la battuta, perché è il treno a alta velocità che ti permette il viaggio breve, no? Però appunto c'era anche tutto quello che hai appena detto tu, c'era quello che gli storici, io sono di formazione storiografica, chiamano la lunga durata, l'importante è di vedere i fenomeni nella lunga durata, la longue durée delle col des annales, e c'era anche già in nuce quello slogan a sarà dura, che è nato in realtà svariati anni dopo, ma che vuol dire sarà dura per voi, sarà dura per noi, nel senso che noi non pensiamo che vinceremo subito, però siamo pronti appunto a fare una lotta di lungo respiro. Ecco. Ecco, tu hai evocato la musica, allora fermiamoci già per una prima pausa musicale, però appunto è a tema, sono i Ludalfin. Vuoi brevemente spiegarci anche l'album Cavalier Faidit? Sì, i Ludalfin cantano in occitano, sono un gruppo che tiene alta la bandiera insomma della cultura delle vallate occitane del Piemonte. Anche nell'alta Val di Susa si parla occitano, si parla un dialetto dell'occitano, un patois, e i Ludalfin sono di casa in Val di Susa e nelle iniziative del movimento Notav, perché sono uno dei gruppi che c'è stato sempre, e suonarono un concerto mitico che io racconto alla Libera Repubblica della Maddalena nel giugno del 2011, quell'esperienza autogestionaria incredibile che si fece in Val Clarea, appunto tra Giaglione e Chiomonte, dove volevano fare e dove poi purtroppo hanno fatto il cantiere. Io racconto il concerto di quella sera e racconto anche tutti i miti e le storie che in quel concerto vennero evocati e che erano miti che erano di casa in quei boschi intorno. Allora ascoltiamocelo. Batalla per la via de Barcelona, si te un vas prelevar, cavalier senso culo, lo tu sabras amagar, per la via de Barcelona, lo tu rumas desventia, devoro a ti, cavalier faidi, bianca de vi, partiras de mamma te, io de supo de formaggio, io de pane de jambon, a de pianta vende ruge. Una chanson, vede fie della padruna, non si sciaudare in l'unies, cavalier senso culo, passare in una bodonie. Devoro a chi, cavalier faidi, bianca de me, partiras de mamma te. chiappa da un rocchevole, tu da dai renauti cian, de valette de cuarde, e sburra lo mio paese, che picugno c'ha che parte, ma se flamo un po' a me. Fatti dal vento, grandio come un rusino, l'utri gusto di Ciancran, ero miei parte ieri sera, senso te d'una lamento, alla russo per cianiero, l'une mes, su un passaglian. Devo rocchi, cavalli e fai, bianca neve, partiras del torniamo insieme sui 103.100 di Radio Città Fujiko. Oggi siamo in compagnia di Wuming Uno, che ci sta presentando il suo libro sui Notav, sulla battaglia Notav, un viaggio che non promettiamo breve. Abbiamo ascoltato il Ludalfin con Cavalier Faidit e, come dire, questo ci porta forse a capofitto in una parte anche del tuo lavoro, del libro e della ricerca sul capire sostanzialmente la ricetta che ha permesso a una lotta di essere così longeva e a un popolo di essere così agguerrito. Tu la indaghi, insomma. Sì, sì, io vado indietro anche di secoli, però diciamo che il vero punto d'inizio della genealogia che io racconto è nell'Ottocento, negli anni 70 dell'Ottocento, quando la valle comincia a industrializzarsi. Ci sono degli incentivi dati dai comuni perché le industrie si insediano lì, ci sono tutta una serie di fattori che io elenco che sono favorevoli all'insediamento delle industrie, quindi nasce una classe operaia. Una classe operaia che per più di un secolo sarà in realtà maggioranza femminile, perché domina l'industria tessile e nei cotonifici e lanifici 2/3 della manodopera sono donne, con tutto quello che questo comporta anche in termini di liberazione delle donne, di emancipazione e di liberazione delle donne della valle e del loro protagonismo nel conflitto sociale. E quindi racconto tutta una tradizione operaia che la valle ha avuto e ancora ha, perché comunque le industrie, come nel resto d'Italia, sono diminuite, sono state esternalizzate, hanno chiuso, però ci sono ancora fabbriche, ancora molti notav fanno gli operai. Io racconto a un certo punto, cioè spiego che il movimento Notav è il movimento operaio a cielo aperto, cioè fuori dalle fabbriche, vale a dire che ci sono delle tattiche, ci sono delle attitudini che sono state temprate e perfezionate negli anni del conflitto sindacale, e ci sono anche dei meccanismi di solidarietà della popolazione intorno nei confronti della lotta che si ripresentano più volte nel tempo. Io racconto che certe manifestazioni anche pratiche come sottoscrizioni per una cassa di resistenza si sono viste già nel 1961 all'epoca dei grandi scioperi nei cotonifici Valle Susa, che sono stati l'avvertenza operaia più lunga del dopoguerra in provincia di Torino, molto più di qualunque cosa sia mai successa alla Fiat, per dire, e faccio vedere che si ripresentano tali e quali queste forme in una situazione cambiata, quindi faccio vedere proprio l'origine operaia e proletaria del movimento Notav, però indago anche altre tradizioni. Intanto la resistenza, la guerra partigiana in Val di Susa è stata molto peculiare e diversa da quella del resto del Piemonte, e proprio per via della presenza della ferrovia, che era un collegamento internazionale strategico che i tedeschi dovevano poter usare a ogni costo, quindi la resistenza è stata durissima e si è combattuta tutta su sabotaggi e prevenzione dei sabotaggi della ferrovia, quindi anche in quel caso lì interrompere i tempi, contestare i trasporti, no, questo è un leitmotiv che torna sempre, dell'avvertenza anche armata, in quel caso lì sui trasporti. no? E poi c'è tutta una tradizione che comincia proprio dalla Resistenza, che un sacco di preti erano partigiani, di un cattolicesimo sociale, cattolicesimo di base, di sinistra, che poi negli anni successivi guarderà molto alla teologia della liberazione. Se c'è un posto dove si può dire che in Italia c'è stata un'influenza forte della teologia della liberazione latinoamericana, Leonardo Boff, Frei Betto, questi preti radicali qui che poi la Chiesa Ratzinger, la Congregazione per la Difesa della Fede, ha combattuto e cacciato fuori dalla Chiesa, ecco, quella è la Val di Susa, perché il dialogo con quel tipo, con quel mondo là, anche tramite missionari che dalla Val di Susa andavano tipo in Nicaragua, nel Nicaragua della rivoluzione sandinista, questa cosa è stata fortissima. Ecco, e queste sono tre delle tradizioni che indago, ce ne sono anche altre che lavorano sotto traccia, ogni tanto riemergono. Io insomma ho cercato di far vedere la composizione di classe, sempre in modo narrativo, chiaramente, perché non è un saggio, non è un saggio post-operaista assolutamente, è un racconto, e io cerco di far vedere che rapporto c'è tra la composizione di classe della valle e il radicamento e la radicalità del movimento notabile. Ecco, ma a questo punto, come dire, una domanda che mi viene è: queste componenti che, come dire, sono riuscite a stare insieme e a non esigere un'egemonia magari del movimento, come è stato possibile questo? Cioè, a monte di tutto c'è quel no che compone Notav, che loro dicono sempre, questo no in realtà è un sì per un altro modello di sviluppo, per delle pratiche di condivisione, di convivenza diverse, eccetera, ed è vero, però è anche un no molto radicale. Loro non hanno proposto tracciati alternativi, che è la grande trappola in cui cadono molti comitati contro le grandi opere, no? Non voglio il passante nord, allora propongo l'allargamento della tangenziale, no, di Bologna, queste cose qui, no? Il fatto di andare a sindacare su quali potrebbero essere le mitigazioni, non è quello lì il compito di un movimento che si oppone alle grandi opere, ma è di dire un no radicale, tracciare un solco. Quella roba lì non si deve fare, non si deve fare così, non si deve fare cosà, non si deve fare qui, non si deve fare là, perché noi la contestiamo nelle premesse, proprio nell'idea di sviluppo, nell'idea che il cemento e l'asfalto siano le risposte, nell'idea che ci sia una carenza infrastrutturale in un paese dove la percentuale più alta di consumo di suolo che ci sia in Europa è composta in gran parte da consumo di suolo dovuto a infrastrutture, rotatorie, svincoli, strade, autostrade, parcheggi, e così siamo il paese con più consumo di suolo dovuto a infrastrutture. Non c'è una carenza strutturale in Italia, se c'è un problema di traffici e di spostamenti è perché le logiche sono sbagliate, non perché manchino i nastri d'asfalto o le ferrovie, i trafori e queste cose qua. Una volta che tu hai detto un no radicale a monte, quel no tiene insieme tutti. Quel no tiene insieme tutti, perché non ti vai a dividere sui contentini, sulle mitigazioni, sulle compensazioni, sul fatto che comunque te lo butto un po' in culo a te, sei con me però te lo butto un po' in culo, no? Perché comunque il mio comune otterrà questa compensazione, il tuo ne otterrà di meno, quindi io non lotto per il movimento, ma lotto per il mio comune. Questa cosa qua che succede in molte parti d'Italia, appunto, che ci si va a impaludare nella discussione non sul no che sta a monte, ma su approssimazioni e contentini a valle, ecco, questo no radicale è una delle cose che tiene insieme il movimento. Al punto che si è generato negli anni anche un fenomeno che il tuo collega Vumin 4 ha chiamato valsusismo, cioè forse anche per frustrazione nel vedere che non si riusciva in altri territori a riprodurre una lotta analoga, molte persone hanno detto: beh, andiamo allora a combattere in Val di Susa. E hanno fatto benissimo, e anch'io sono appunto andato a raccontare una storia della Val di Susa e non di Bologna, anzi all'inizio nell'ouverture io racconto la frustrazione di chi vive in Emilia, dove tutte le grandi opere, se il partito le vuole, passano, e quando non passano, non passano non per un'opposizione popolare dal basso, ma per gabole, per errori marchiani fatti nella progettazione che impediscono di andare avanti, oppure per rivalità tra blocchi di potere, no? E, ma le grandi opere appunto legate all'alta velocità, legate all'asfalto, al cemento eccetera, qua in Emilia c'è proprio tra l'altro un amore del partito al potere per questo tipo di cose, c'è proprio una storia d'amore tra il PC, PDS, PD e l'asfalto e le infrastrutture e le colate di cemento, perché non è solo un problema di business, del fare degli interessi di un blocco economico che in questo caso è chiaramente la Lega Coop, ma non solo, e c'è proprio anche un problema culturale del fatto di non sapere immaginare altre risposte, devi comunque buttare asfalto, buttare cemento, traforare, fare il delirio eccetera, perché è il progresso, è proprio un limite ideologico, no? E lo racconto all'inizio nella parte introduttiva che io chiamo ouverture. Allora il valsusismo, una volta che uno ha la frustrazione di vedere ad esempio i guasti che sono stati fatti con l'alta velocità Bologna-Firenze, cioè, allora uno o a Reggio Emilia e uno dice vabbè, allora andiamo a vedere perché in Valsusa invece questo finora sono riusciti ad impedirlo. Per loro tra l'altro usano il Mugello, usano l'Appennino Tosco-Emiliano, usano Casa Nostra come esempio negativo: se non ci fossimo opposti qua sarebbe andata come sull'Appennino Tosco-Emiliano, noi siamo l'esempio negativo dei valsusini. Ecco. Certo. A questo punto facciamo un'altra pausa musicale e poi torniamo insieme fra poco. Después de ver tantas cosas, falábamos por educación en castellano y cantábamos en inglés por mestizaje. Aquí saltamos de beira a beira usando nuestras lenguas minoritarias y o diccionario do portugués, do galego, brasileiro, euskera. No que se traduce a palabras saudade. Sabes, tío, que a felicidad. Ahora somos como una canción perdida. Encontrámonos en Nación Reixa. Por andar ya sé de que no somos serios ni razoables. Pasan muchos trenes todas las noches. De besos desde Nación Reixa. Thank you. E con queste musiche occitane che sicuramente saranno risuonate in Val di Susa, torniamo insieme a Vuming 1, che ci sta presentando un viaggio che non promettiamo breve. Oggi, ricordiamolo, uscito in libreria, quindi insomma, dopo questa intervista potete anche andare ad acquistarlo. Nel libro, come dire, in varie parti, forse perché è proprio però condensato in un libro, fa impressione vedere tutte le forme che ha assunto la repressione contro il movimento No TAV, che non è solo una repressione di manganelli, che pure sono stati molto pesanti, è una repressione giudiziaria, ma una repressione economica, è una repressione anche mediatica, possiamo dire. Sì, assolutamente, è un intero impianto repressivo basato sulla diffamazione del movimento e sulla calunnia del movimento a monte, per poter poi giustificare appunto delle misure che fatte in altre parti d'Italia o non collegate a quello, perché vengono fatte in altre parti d'Italia, perché i notaf poi vengono presi, anche non i notaf che vivono in valle, ma vengono comminate misure cautelari abnormi e sproporzionate anche a persone che vivono in altre città, a Milano come a Modena, come a Bologna anche, no? Per cose fatte in valle durante grandi manifestazioni o presuntamente fatte in valle durante blocchi e cose del genere. Però appunto, se quel tipo di repressione, quell'intensità di repressione che porta, non so, a combinare l'obbligo di firma a una vecchietta che cammina col bastone e che ogni giorno secondo loro deve recarsi in caserma del suo paese a firmare perché è pericolosissima, chissà cosa potrebbe fare e dove potrebbe andare se noi non sapessimo che ogni giorno si presenta in caserma a firmare e cose di questo tipo, e i processi tenuti in un'aula bunker per mafiosi, anche processi per fatti assolutamente, come dice spesso l'avvocato Claudio Novaro del Legal Team, per fatti bagatellari, cioè per cazzatelle, no? Anche io faccio l'esempio di un processo contro due sindaci notav per fatti assolutamente ridicoli, per i quali sono stati poi per fortuna assolti, però un processo fatto in aula bunker con un apparato poliziesco di sorveglianza e mediatico impressionante. Questi si sono presentati con le fasce tricolori, no, per dire: noi veniamo qui, cioè siamo sempre sindaci anche qua dentro, non siamo i criminali, cioè non siamo Totorina per cui ci processate in un maxi bunker come se fossimo dei mafiosi, o come se fossimo, non lo so, Ordine Nuovo e fosse un processo come quello della strage di Bologna, no? È una cosa veramente fuori scala. Questa cosa qua per il movimento Notav è considerata normale, cioè fatta nei confronti del movimento Notav si è arrivati a considerarla cronaca ordinaria, una cosa normale, no? Il comportamento della procura di Torino, che ha creato un pool oggi presuntamente smantellato, ma in realtà i nomi dei magistrati poi che girano sono sempre quelli, i nomi dei magistrati che fanno inchieste, dei GIP che gliele appoggiano, eccetera, un pool anti-Notav che si è occupato per anni, sotto la guida di due PM, Padalino e Rinaudo soprattutto, si è occupato solo di cose legate alla contestazione della Torino-Lione. No. E tra l'altro una cosa che gli avvocati del movimento denunciano da anni, di questa corsia preferenziale per cui qualunque denuncia fatta nei confronti di Notav ha un iter velocissimo, si arriva a processo e alla condanna subito, mentre per altre cose anche ben più gravi, anche, non so, magari anche fatti di 'ndrangheta, che a Torino insomma è molto presente, a Torino e provincia, si arriva invece a processo e a condanne dopo anni e anni, no? Quindi loro denunciano questa giustizia a due velocità. Però appunto si è talmente sedimentata nel tempo, è andata avanti talmente a lungo che è considerata, non so, è stata considerata a lungo, adesso non lo so, forse qualcosa ha cominciato a cambiare, ma nell'opinione pubblica torinese, vabbè dai, questi sono i notav, i soliti notav, no? Vabbè dai, e cose del genere. Però se uno mette tutto in fila, appunto, come ho cercato di fare io, e farne vedere lo sviluppo diacronico, lo sviluppo nel tempo di questo apparato repressivo, di come nasce, e poi soprattutto quando vede i nomi, cioè chi è il grande protagonista di tutto questo dal punto di vista giudiziario, chi è quello che alla guida della Procura di Torino ha impresso questa accelerazione, questo cambiamento, questo insomma accanimento anche di immagine, con interviste continue, lettere ai giornali, eccetera. eccetera, nei confronti di Notav. E Giancarlo Caselli, considerato appunto un eroe dell'Italia buona, dell'Italia civile, delle cause indiscutibili, dell'antimafia, eccetera. Anche qui c'è una discrasia, no? Tra quello che, come vede Caselli chi si occupa di movimento Notav e come lo vede chi invece non ha questo passaggio, perché questo passaggio retroagisce anche su tutto il resto, su proprio su una concezione della giustizia che ha Caselli. Ecco, io forse mi guadagnerò una querela da Caselli nel dire che forse ha fiutato un'occasione per un protagonismo che magari non aveva più. Però insomma, in questo elenco, in questo racconto della repressione, a me ha colpito molto il fatto che sostanzialmente in Valsusa sembra non valere più lo stato di diritto, ma c'è uno stato di eccezione. Viene stravolto anche il diritto, per cui chi si trova solo fisicamente presente in alcuni fatti è come se fosse responsabile anche di aver lanciato un sasso, anche se non l'ha lanciato, ad esempio, e tutto di pari passo con lo screditamento mediatico tra chi è della valle, chi no, che cosa è successo realmente, chi no. C'è un giornalista della Stampa che, come dire, tu sputtani, possiamo dire, no? Nel senso, riporti tutto, certo, tutto, ma tutto è fontato e documentato per fare capire anche, come dire, la sua etica deontologica. Logica, insomma, ha contestato uno spettacolo teatrale che non si è svolto, insomma, è stato rinviato a causa maltempo. Sì, vabbè. Sì, e questo è il minimo. Certo, no, era per fare un esempio simpatico. Il minimo che si possa dire, sì sì. No, allora, riguardo alla questione del concorso, giustamente gli avvocati del movimento Notav hanno detto che lì si sta sperimentando da anni una nuova idea di concorso, in reato, no? Perché chiunque fosse presente a una situazione che è, virgolette, degenerata in scontri, può essere ritenuto responsabile di tutto quello che è successo in quella manifestazione. Questa cosa è stata detta a chiare lettere, c'è un'ordinanza di un GIP dove viene scritto, e io riporto testualmente, virgolettato: non importa in questo contesto capire esattamente chi ha fatto cosa, questo dice, non importa sapere chi ha tirato il tal sasso, perché chi era presente a quella manifestazione lì, che poi è diventata una serie di scontri, vuol dire che era arrivato lì con l'intenzione di farla, e quindi vuol dire che ha accettato preventivamente tutto quello che è accaduto. Questa è un estensione dell'idea di concorso vertiginosa, no? Che porta poi a moltiplicare per 2, per 5, per 10, per 20 il numero dei denunciati in ciascuna occasione, anche di gente che era rimasta ai margini, anche, cioè, di gente che non è nemmeno detto che fosse lì, capito? Però le cronache giudiziarie e i verbali, insomma, le trascrizioni dei dibattimenti che ci sono state sono pieni di perle. Io ne cito alcune, ma avrei dovuto fare un libro di 3.000 pagine se avessi voluto proprio andare a fondo a fare una disamina di ciascuna assurdità e logica fallace, esempio di logica fallace in cui mi imbattevo andando a leggere quelle cose. Ecco, per contro, insomma, c'è un partito, quello del cemento, del TAV, che se ne fotte della natura, della salute, della giurisdizione, anche dell'archeologia e della storia, insomma. Però insomma, non possiamo raccontare tutto il libro, perché altrimenti poi le persone non lo leggono. Ma comunque abbiamo detto pochissimi, e no, 650, esatto, pagine. Esatto, quindi insomma, in realtà ce n'è tanto. Tra l'altro ricordiamo che l'11 novembre tu sarai a VAG 61 a presentarlo, giusto? Sì, esattamente. E quindi insomma lì ci sarà modo anche per ovviamente sviluppare ancora questi concetti. È difficile trovare una chiusura a questa intervista. Propongo due livelli: uno, una domanda del cazzo, che probabilmente non so se vorrei rispondermi, ma alla fine il movimento Notav vincerà? Ma in un certo senso ha già vinto, cioè nel senso che ha dimostrato che ci si può opporre con efficacia, e nell'opporsi con efficacia a un progetto devastante si ritrova anche un senso di comunità, di solidarietà, di condivisione, di uguaglianza tra le persone, anche tra persone che vengono da percorsi molto diversi tra loro. Cioè si può fare, e si può fare anche fuori dalla Val di Susa. Io quello che continuo a dire è che se ciascuna situazione riuscisse a capire quali tipo di peculiarità, quali tipo di singolarità di differenze e di specificità che ci sono in Val di Susa e il movimento ha saputo sfruttare, da lì si può sfruttare la nostra specificità, la nostra tradizione e inventarci retroattivamente una nostra genealogia delle lotte che si nutra di questo, capito? E in molte parti d'Italia è possibile farlo, non è possibile farlo solo in Val di Susa. Un errore che si è fatto è di dire che si potesse esportare tu cur la lotta della Val di Susa altrove, facciamo come in Val di Susa. No, dobbiamo fare a modo nostro, però traendo ispirazione da come la Val di Susa ha fatto a modo suo. Quindi in un certo senso, a un certo livello, ha vinto, cioè ha fatto vedere che si può fare, che si può fare, tanto da mettere in crisi la legittimità dello Stato. Oggi hai esponenti dello Stato, sia della magistratura sia del potere esecutivo, che dicono, candidi, sinceri, papali papali, che l'opera va fatta, perché se si facesse vedere che il movimento l'ha fermata, ci sarebbe una crisi di legittimità dello Stato che quell'opera lì l'ha voluta. Questa cosa l'ha detta un PM, al processo per terrorismo, per la storia dell'incendio al compressore, al processo d'appello. Marcello Maddalena l'ha detto, io riporto, l'ha detto praticamente testuale, ha detto che ormai quando lo Stato ha deciso va fatta, e se non fosse fatta verrebbe messo in crisi lo Stato stesso. Quindi già questa è una vittoria, portarli a dire una roba del genere è una vittoria. Certo, il movimento NoTav emerge anche dal tuo libro, ma insomma chi un po' si è interessato di questi temi lo ha capito, è anche un movimento molto istruito, diciamo così, che ha studiato molto bene e ha competenze molto alte nello smontare anche tutte le bufale che sono state dette. Quindi forse, come dire, serve anche che per, non per esportare, ma per riprodurre una battaglia del genere, si mettono insieme anche queste componenti, le componenti che non solo per una questione di principio, ma sappiano analizzare anche la situazione, i documenti, le carte, eccetera, eccetera. Sì, sì, i movimenti sì, sono cose di cuore, ma devono essere anche cose di testa. È una dicotomia che non ha alcun fondamento biologico, neurofisiologico e cognitivo, però vabbè, è una metafora ormai incancrenita nei nostri discorsi. Però appunto bisogna studiare. La cosa che fa vedere il movimento NoTav è che quelli studiano, fanno seminari di formazione permanente, discutono continuamente delle problematiche legate al progetto, di che cosa questo comporta per la valle, e tutte le volte che dei virgolette degli esperti di TAV, di trasporti eccetera, provarono nei primi tempi ad avventurarsi in valle, a provare a indorare la pillola, a spiegare alle popolazioni, sono stati umiliati in confronti pubblici dal pubblico, proprio da gente che s'alzava e faceva regolarmente domande che mettevano in crisi, a cui questi esperti e tromboni non erano in grado di rispondere eccetera. A un certo punto hanno proprio smesso di andare in valle per non fare delle figurette, ok, perché veramente il livello medio di consapevolezza, di competenza, di formazione che c'è in valle è altissimo, è un sapere di massa che è stato costruito. Ecco, io all'inizio avevo pensato di dire che questo 31 ottobre non è solo il giorno di uscita del libro di Vuminguno, ma anche un anniversario della battaglia del Seghino. Può essere considerata la prima grande battaglia sul campo? Il primo scontro campale con la polizia, in cui si è fatto vedere che la gente non aveva paura dei celerini, hanno difeso per ore e ore e ore un ponte che per loro era considerato limite invalicabile per impedire alla polizia di espropriare dei terreni nel comune di Montpantero, appunto accanto alla frazione, il Seghino è una frazione del comune di Montpantero, e lo slogan era sul ponte del Seghino non passa il celerino, e quella è stata la prima volta, il 31 ottobre 2005, in cui ci si è resi conto che si poteva resistere anche alla violenza poliziesca. E chiudiamo allora davvero questa volta con un altro slogan del movimento, che è si parte e si torna insieme. Sì, si parte e si torna insieme. Per me significa anche, questo libro non l'ho scritto da solo, chiaramente. Cioè, nel senso, la sintesi è mia e mi prendo tutte le responsabilità di qualunque svarione che ci possa essere dentro. Mentre i meriti del libro sono di una vasta collettività che mi ha aiutato, le persone che ho intervistato, che mi hanno portato in giro per la valle, che si sono prestati a fare da lettori di prova del libro, che mi hanno dato suggerimenti, non solo in Val di Susa, ma anche nella mia appunto rete di collaborazioni e di amicizie che ringrazio alla fine. E, ecco, quel si parte e si torna insieme per me significa anche questo. Questo libro siamo partiti insieme a lavorarci e adesso che esce appartiene a tutti. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutte e tutti. 45 minuti di agonia, la faccia per terra, radio blackout, le urla, la polizia, la rabbia, lo spavento, di nuovo la rabbia, l'attesa di un cenno, poi la speranza al primo movimento. Sono già in movimento, come me, altri 10, 100, 1000 stanno già salendo. E questa volta non so quando torno né quando scendo. Altre le cose da cui oggi dipendo. Ho fatto le barricate, acceso il fuoco per scandare le nottate. Lo stesso l'ho visto riflesso negli occhi delle persone incontrate. Tutte le persone, bambini, giovani, adulti, anziani, uomini e donne, senza distinzione. Il momento di distensione, quello di tensione, quello dell'azione, ma sempre la convinzione che da 20 anni fino adesso nessuno qui ha fatto un passo indietro. Dietro a quelle barricate c'eravamo tutti, davanti a quelle recinzioni c'eravamo tutti, su quel traliccio c'eravamo tutti. A Saratura, arrestateci tutti, dietro ai blocchi in autostrada c'eravamo tutti, ad occupare le stazioni c'eravamo tutti. Se c'è una cosa che so è che tutti non abbiamo paura, arrestateci tutti. Sarà dura, ma più per voi che per noi. Abbiamo la pelle dura, ce l'ha insegnato Luca e poi. Non si fa democrazia con la pistola sulla nuca. La Valsusa resiste, non ho paura di che parli. Sono io il primo che vorrebbe isolare i violenti dai manifestanti, denunciarli, allontanarli. Ma senza il numero sulla divisa non riesco più a identificarli. Questa vai maiali che scrivono di scontri sui loro giornali, sapendo che non sono tali. Se non siamo ad armi pari, manganelli, donne anziani che alzano le mani, diventano aggressioni infami. Se la celere in tenuta antisommossa canta faccetta nera, noi risponderemo con bandiera rossa. Se l'ingiustizia di Stato sarà concessa, l'unica strada che resta è la resistenza. Dietro a quelle barricate c'eravamo tutti, davanti a quelle recinzioni c'eravamo tutti, su quel traliccio c'eravamo tutti. A Saratura, arrestateci tutti, dietro i blocchi in autostrada c'eravamo tutti, ad occupare le stazioni c'eravamo tutti. Se c'è una cosa che so è che tutti non abbiamo paura, arrestateci tutti. No, love, non passerà, la mia gente, la mia terra, la mia libertà. No, love, non passerà, la mia gente, la mia terra, la mia libertà. Puoi chiamarmi cretinetti e dirmi che non mi rispetti, ma se metti un piede in valle ti giuro che non ci esci. Puoi usare questi testi, insultarci quando ci arresti, ridere quando ci pesti. Il movimento non lo fermi. Non parlarmi di scontro sociale sul tuo canale. Il giornale non è libero, il libero non è un giornale. Non è il ricordo degli anni di piombo, sia chiaro, non vali neanche la polvere da sparo. No, love, non passerà, la mia gente, la mia terra, la mia libertà. No, love, non passerà, la mia gente, la mia terra, la mia libertà. Yeah. 2012. Sì. E questo è Torino. Yes. E questo va ai miei fratelli e alle mie sorelle su in Valsusa che resistono. Oggi, ieri, domani. Para sempre. Principe, Mauras. E così che va. Yeah.